però si va soppressa la sua. No, non rida, insomma, i gioielli di famiglia vanno tenuti un po' al calduccio. Assolutamente sì. Ecco. Ah, no, da mia sorella dice: la vuoi improverare tua madre? Nelle chiappe. Non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. La tagarella degli esami. Certo, e metto le mani lì. Io, anch'io lo faccio. Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Cos'hai in mano? Toglio. Niente. Cosa stai facendo? Non mi starei mica telefonando? No, dai, stavo... A chi? A chi? Vuoi sapere a chi? Certo. Sai che stavo pensando che ormai con SMS, Facebook, Twitter, sì, WhatsApp e chat di ogni tipo ci siamo quasi disabituati a usare lo smartphone per parlare. E scriviamo, ma io nel frattempo spengo il mio cellulare, perché devo dire che un'ora e mezza senza cellulare resisto e mi fa anche piacere. Allora, anch'io durante la puntata naturalmente lo tolgo di mezzo, perché a parte il fatto che fa anche un po' l'interferenza, per cui non è carino sentire questo zzz, no? Del telefono che invia, dal quale arrivano messaggi o telefonate. Ce la faccio anche durante le due ore della palestra, due o tre volte alla settimana, però... Di notte lo spegni? No, lo tengo lì nel comodino, naturalmente, se mi alzo verso le 4 perché devo andare in bagno. Vuoi non dare un'occhiata? È vicino a te proprio. Vicino a me, so che non è magari un uso tanto corretto, ma magari questo ne parleremo in un'altra trasmissione. Però l'avrei sentito anche tu forse, nelle coppie l'abitudine di leggere i messaggi e le email dallo smartphone del partner è sempre più diffusa. Parliamo di te. Sì, però allora io devo dire che il cellulare di mio marito non lo vedo. Forse perché me lo tiene nascosto, ma meglio così. Occhio non vede, cuore non duole. Però secondo un sondaggio condotto da una nota società di sicurezza informatica, devo essere proprio una mosca bianca, perché il 42% della popolazione non single spia regolarmente nella vita online del partner, anche sbirciando tra gli SMS ricevuti sul cellulare. Allora chiedevo subito alle nostre amiche e agli amici che ci seguono se siete tra questi, oppure avete deciso che insomma ma i partner non si sbirciano, o ci si fida oppure si cambiano. 800 24 00 24, se avete sbirciato, ci sono state delle conseguenze? Raccontatecelo anche mandandoci un SMS al 349 238 6666, ma come sempre potete anche seguirci su Facebook e su Twitter. Siamo sempre connessi. Sempre connesse. Come avrete capito, oggi parliamo di telefonini a cuore e denari, perché c'è chi spia sul cellulare del fidanzato o della fidanzata, ma c'è anche tanta gente che sembra proprio essersi direttamente fidanzata con il suo telefonino, proprio perché non se ne separa mai. Lo fa Emanuele, che ci scrive: sono schiavo dello smartphone e quando ce l'ho in tasca continuo a sentirlo vibrare, anche se non è vero. Il cellulare è diventato un prolungamento dei nostri pensieri. Il gesto di scrivere un messaggio o fare una telefonata ogni volta che ci viene in mente diventa quasi un automatismo. Attenzione però, perché in certe situazioni, se non si riflette sull'uso che ne facciamo, anche i denari ne possono risentire. 800 24 00 24, siete inseparabili dal vostro cellulare? Avete mai calcolato quanto spendete al mese o all'anno per utilizzarlo? Conteggiatelo e scrivetecelo in un SMS al 349 238 6666 o sui social network. Nel conteggio non dimenticate di quella volta in cui eravate in vacanza all'estero e vi siete ritrovati a pagare una bella, così, Marco Lombardo, uno dei nostri autori, ha scritto schioppettata. Insomma, una bolletta davvero che ci ha fatto andare su di giri, perché può succedere. È così avvocato Francesco Luongo, segretario nazionale e responsabile nuove tecnologie e servizi a rete del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno avvocato. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Certo che è possibile, molto spesso gli italiani portano al posto dei souvenir, come ricordo, delle belle bollette. Il souvenir trasformato in bolletta è veramente un'immagine curiosa. Avvocato, poche settimane fa il Parlamento europeo ha votato a favore dell'abolizione delle tariffe di roaming entro Natale 2015. È un passo decisamente importante, già ufficiale questa scadenza o mancano ancora dei passaggi? Guardi, manca l'ultimo passaggio della Commissione. In Europa c'è una procedura legislativa di codecisione. La Commissione propone un regolamento, il regolamento viene approvato dal Parlamento con eventuali emendamenti e viene ripassato alla Commissione che lo conferma. Ci siamo, il voto del Parlamento era fondamentale, non crediamo che la Commissione effettuerà modifiche e quindi finalmente potremo almeno in Europa viaggiare tranquilli con il nostro smartphone. Al momento però le tariffe non sono azzerate, appunto è un obiettivo a cui si tende per il 2015. Al momento, se si va all'estero, a meno che non si abbia naturalmente un abbonamento particolarmente vantaggioso, si paga qualche volta anche molto. Raccontateci delle telefonate a caro prezzo che hanno reso indimenticabile un viaggio di lavoro di svago fuori dall'Italia. 800 24 00 24 è il numero verde per voi. Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora ritornare da me. Devo dire che con lei non volevo. Intanto Deborah, stanno arrivando molti messaggi, sbirciamo, non sbirciamo, leggiamo. Allora una Federica mi scrive: un abbraccio Nicoletta, forse mi vuole incoraggiare, però mi dice che siamo in due, non spiare. Brave. Mentre un'ascoltatrice ci scrive: mai fidarsi, io l'ho fatto, non ho mai sbirciato e l'ho pagata a caro prezzo, tradita con la mia amica. Vabbè, io dico che ci ha guadagnato la nostra ascoltatrice, perché si è liberata di un'amica non tanto amica e di un marito traditore, che ne dici? Bene, secondo me ha guadagnato lei. E Silvia ancora ci scrive: anni fa avevo la tentazione di leggere gli sms di mio marito, ma non l'ho mai fatto, meglio non rompere equilibri, vedi come saggia. Basta, salute e pace. 800 24 00 24 per parlare del telefono, parliamo di lui, di voi, con lui e di voi senza di lui, o dovremmo dire di loro, perché molti di noi di cellulare o smartphone ne hanno più di uno, ma oggi non ci interessa tanto sapere quanti cellulari possediamo, ma quanto è stretta la relazione con lui, con questo telefonino, e che tipo di relazione è, se è appagante, rassicurante, discontinua e di interesse. Però prima che arrivino i messaggi io vorrei fare una premessa, cioè, ed è questa: che la tecnologia ci ha offerto questi nuovi strumenti per comunicare. Certo. E tutti sappiamo che il nostro modo di comunicare è cambiato, è diverso rispetto al passato e sta cambiando continuamente, quindi non, io credo che non sia né buono né cattivo, non abbiamo ancora gli elementi per giudicare, sospendiamo il giudizio ma ne parliamo e facciamo una riflessione a voce alta insieme a Franco Del Corno, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno. Psicologo, psicoterapeuta e direttore della collana di psicologia clinica e dell'editore Raffaello Cortina. Professore, noi sospendiamo il giudizio, ma qualche parolina vogliamo farla su questi smartphone? Ma sicuramente il progresso tecnologico va sempre di pari passo con la possibilità di offrire degli spazi di libertà e delle conquiste e delle facilitazioni che prima erano assolutamente impensabili, ma allo stesso tempo espone a tutta una serie di rischi e di pericoli che sono di vario genere, e certamente uno di questi è proprio il rischio di rimanere assolutamente dipendenti da queste possibilità offerte dagli smartphone e dai social network che attraverso gli smartphone sono raggiungibili 24 ore su 24, per cui le persone che hanno qualche problema di relazione dipendente nei confronti degli oggetti che più li coinvolgono emotivamente, e che possono essere degli oggetti fisici come i telefonini, ma possono essere anche delle relazioni con gli amici, con la fidanzata, eccetera, possono usare le risorse tecnologiche non in un modo che incrementi la qualità della loro vita, ma in un modo che finisce addirittura per penalizzarla. Questo però, diciamo, non è colpa del telefonino. Non è colpa del telefonino. Cerchiamo di capire, ad esempio, se riusciamo, quanto riusciamo a stare senza cellulare. fare, no? Senza andare a vedere le mail, sì, senza mandare messaggi, collegarci con WhatsApp. Tra l'altro SMS e WhatsApp sono due modi proprio ancora di comunicare differenti. Esattamente. Io sono differenti, ancora un po' più legata agli SMS. Tu, allora, sei più WhatsAppesca. No, devo dirti che io ero molto legata alle SMS, dopodiché a furia di avere molti amici che insistevano per farmi installare appunto WhatsApp, perché è una modalità di messaggiare naturalmente gratuita, l'ho dovuta installare, però anche lì è l'ennesimo veicolo per conversare che in qualche maniera condiziona molto, e lo vorrei disinstallare di nuovo, ma poi gli amici che devono spendere, vedi, in qualche maniera devono pensare anche a loro. Da possibilità ad obbligatorietà. Sì. Io credo che professor Del Corno, Deborah ha sottolineato un aspetto importante su cui possiamo riflettere senza naturalmente giudicare nessuno, ma è una riflessione che ci aiuta un pochino. No, certamente. Ecco, allora, molte persone hanno trovato la possibilità, no, di attraverso questa tecnologia di mettersi in contatto, relazionarsi, controllare i figli, controllare il marito, ma soprattutto ricevere mail di lavoro, insomma avere la comunicazione a disposizione. Altre invece si stanno rendendo conto che questa possibilità è diventata un'obbligatorietà, cioè noi dobbiamo comunque essere sempre connessi, e gli smartphone ci permettono di essere multitasking. Bisogna capire se lo vogliamo o ne siamo obbligati, forse un mix di entrambe. 800 24 00 24, i controlli sui mariti sui cellulari hanno veramente scatenato le nostre ascoltatrici, e noi andiamo a sentire invece un ascoltatore, Danilo, che ci chiama da Brescia, e poi ne abbiamo un altro, Francesco da Roma. Danilo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Buongiorno, c'è anche Deborah, sono... Ci saluta tutte e due? Ci mancherebbe, anzi, vabbè. Piacere. Grazie, sono, Danilo. Sono una persona che va un pochettino contro, diciamo, corrente. Io non ho mai controllato il cellulare alla mia compagna e siamo insieme da 15 anni. Non ne ho bisogno, e di crisi l'ho capito non guardando un messaggio, ma vedendo i suoi comportamenti. Evidentemente. Bravo, Danilo. Bravo, già. Non ho lo smartphone. Neanch'io. Neanch'io. Neanche noi ce l'abbiamo, Danilo. Stiamo resistenti. Io onestamente amo molto le tecnologie, perché sono un chimico e uso sempre macchine analitiche, così. Ma l'idea di essere drogato da queste tecnologie non mi affascina per niente. E quindi, insomma, e quindi ne fa meno. Chi Danilo lo vuole resiste. Raggiungere lo chiama con al telefono. Telefono normalmente. Francesco, buongiorno da Roma. Buongiorno. Buongiorno, io volevo esporre quello che mi è successo a me e quello che è capitato anche al mio amico. In pratica io volevo utilizzare il cellulare di mia moglie come internet sharing, perché era uno smartphone, e ripeto, sposati da 10 anni, come più o meno come l'ascoltatore, e ho trovato SMS e WhatsApp molto compromettenti. E naturalmente in fase di separazione e divorzio non l'ho potuti utilizzare, perché è assolutamente vietato per legge. E infatti, comunque... sai che Francesco, un ascoltatore, leggo un messaggio: attenzione alla privacy, si rischiano 6 mesi, e vabbè, quindi lei è stato zitto. È anche vero che ma qua infatti io è stato un caso. Ma la cosa principale, quello che è successo, è che un mio amico, sentendo questo, e aveva la moglie con 2 gemelli di 6 mesi, e le ripeto, la moglie era tutta casa e chiesa, e per pura curiosità ha detto: ma per pura curiosità ha visto il cellulare, e naturalmente questa persona con 2 gemelli di 6 mesi aveva la doppia vita, diciamo. Una doppia vita, ma Francesco, quindi, insomma, vita. Cose che successe, sono sempre successe, secondo me, e che però, ecco, adesso con le nuove tecnologie riescono in qualche maniera a venire a galla più facilmente. È un bene o un male, non lo sappiamo. Ma noi oggi, oltre che a sbirciare, sui sapere se sbirciamo, vogliamo anche sbirciare le nostre bollette. Posso raccontare una cosa? Ho lasciato il mio cellulare a Marco Lombardo, che è in regia. Ma io lo controllo. Perché noi aspettiamo l'SMS di Alessandra Tedesco, che è la nostra collega che più tardi si collegherà dal Salone del Libro. Vi anticipo già che avremo molte sorprese nella seconda parte del programma. Chissà che non mi vada a guardare tutto quello che mi sono scritta, ma guarda, con altri io, in questi giorni. Io butto l'occhio, perché abbiamo anche Carmelo Lauricelle. Che ha preso il mio telefono? Sì, l'ho visto che l'aveva in mano. Adesso ti sta ricattando, perché dicono che noi donne siamo curiosi, ma lo sono molto anche altro gli uomini. Che... e noi sbirceremo anche sulle nostre bollette, perché vero? E lo facciamo con Maria Grazia che ci chiama da Roma e esatto. Forse ha una domanda però da porre. Però siccome è molto simpatico l'avvocato Francesco Luongo, visto che anche un legale si occupa di tecnologie e di un'associazione di difesa dei consumatori, però magari proprio dal punto di vista legale un po' i casi che ha ascoltato fino ad ora su mogli e mariti che sbirciano reciprocamente nei messaggini degli altri, appunto, avvocato Luongo, che ne pensa di questa deriva che ha preso il nostro nuovo modo di comunicare? Il problema qual è? E lo ripetete spesso, lo smartphone diventa una sorta di nostra propaggine. Il punto quando si parla di doppia vita è: ma è una doppia vita reale o una doppia vita virtuale? E conseguentemente questo fattore condiziona molto i giudizi, le eventuali cause di separazione. Certo, innanzitutto c'è un problema di privacy per cui quindi questo lei ce lo conferma. In questa causa di separazione l'ascoltatore sì. Non ha potuto far leva su questo comportamento della moglie. Sì. Il nostro amico avrebbe rischiato anche una denuncia. Ma roba da matti. Certo, ha ragione, secondo me. Insomma. Vabbè, io non so. Vabbè, qui potremmo aprire un altro dibattito molto interessante. E quindi, avvocato? Sì, quindi il punto è semplicemente uno: è possibile provare la condotta scorretta del coniuge? Lo si può fare semplicemente visualizzando un SMS che può essere partito o semplicemente essere stato ricevuto? Beh, crediamo proprio di no, e infatti i giudici, e la Cassazione lo ha specificato, devono sempre guardare la complessità della situazione nelle sue varie sfaccettature e rapporti. Ecco. Comunque, caro il mio avvocato Luongo, un ascoltatore ci scrive: inutile sbirciare, la donna ti manda messaggi senza telefonino. È d'accordo il nostro professor Del Corno? Assolutamente sì, ringraziando il cielo, insomma, perché sennò saremmo veramente messi male. Credo anche che bisogna stare attenti a non imputare ai mezzi di comunicazione attualmente disponibili la colpa di difficoltà coniugali o relazionali che sono sempre esistite. Insomma, un tempo si intercettavano le missive, le lettere, i bigliettini, oggi si possono intercettare gli SMS, gli MMS, cose di questo genere. Invece, Prego. Pensavo che dovesse concludere, mi scusi professore. No, stavo pensando che mentre i messaggi dobbiamo intercettarli, le bollette invece ci corrono dietro. Altro che intercettarle, ci corrono io dietro. Io di bollette volevo parlare. Sentiamo poi tu ti sei detto all'avvocato Luongo, sei entrata nella coppia. Eccola là. Allora andiamo a vedere questa vacanza in Francia che è un ascoltatore, costata 167 euro di bolletta, e secondo me gli è andata anche bene, perché invece un altro ascoltatore per 24 ore ad Istanbul con connessione dati attiva gli è arrivato un conto di 960 euro. Ha protestato con il gestore, lo dico chi è, Vodafone, tanto noi diciamo tutto. Sono 3 o 4, non è che ne abbiamo 50 qua in Italia. Me ne ha riaccreditati 800. Avvocato Luongo, ma non era meglio far sapere prima che partisse all'ascoltatore appunto che questo viaggio gli sarebbe costato così tanto? Non lo so, c'è una modalità con cui l'operatore telefonico può intercettare il viaggio, dico io, e comunicare all'utente che il traffico dati gli costerà in questa maniera? Non solo c'è, ma è addirittura obbligatorio. Sono tanti anni che ci conosciamo ormai, Deborah, e ne abbiamo parlato tanto. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ormai lontano 2010 con la delibera 326 ha fissato delle regole precise in tal senso, obbligando i gestori a fissare ad esempio delle soglie di traffico in roaming sia per i paesi aderenti all'Unione Europea, e l'importo è minimo di 50 euro, sia per i paesi extra-UE, ricordiamo quindi allo Stato la Turchia, che è sempre di questa somma di 50 euro, sottolineando che l'operatore deve informare con un SMS prima del raggiungimento di questa soglia. Certo. E raggiunta questa soglia deve bloccare il traffico. La delibera la dobbiamo ricordare, perché sa, i consumatori non è che passano il tempo a leggere le delibere dell'Agcom, è la 326 del 2010, quindi ci sono degli obblighi precisi, l'operatore deve informare l'utente. Mm-hmm. La mettiamo su Facebook, lo dico a Marco, così almeno lo troviamo questo documento e lo mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori. E andiamo subito a sentire Maria Grazia, buongiorno, che ci chiama al nostro numero verde. Totalmente disinteressata a guardare nel telefono degli altri, Maria Grazia, lei se ne sta partendo per un viaggio straordinario. Sì, devo partire il 5 giugno, vado sia nello Yucatan che a New York. Molto bene. Volevo sapere, siccome ho avuto una brutta avventura, non proprio bruttissima, ma in Svizzera ho avuto anch'io una bella bolletta, volevo sapere come mi devo comportare. Allora, beh, intanto io penso che Avvocato Longo, la prima cosa da fare è chiamare... dovrebbe portare con noi, prima, con lei, prima cosa. Quello se proprio che dovrebbe... non può, ci mandi almeno una cartolina, ci scriva da là. Avvocato Longo, la prima cosa da fare è chiamare il suo operatore per informarlo del fatto che sta facendo questo viaggio e quindi magari così opzionare una tariffa conveniente per questo trasferimento. Allora, quindi, Deborah, ormai sei un'esperta, no, una di buon senso, socio onoraria della nostra associazione. Come di molte altre, grazie. Assolutamente sì, chiaramente una telefonata al call center del proprio operatore, aderendo eventualmente ad un'opzione tariffaria che garantisca tariffe di roaming adeguate. Se la signora non usa servizi internet, quindi traffico dati, ricordiamo di staccare l'opzione che troverà sul proprio cellulare di roaming internazionale. Gli arriverà un SMS non appena varcato la frontiera con l'indicazione dei costi e dovrà stare molto attenta a che le pervenga l'SMS di cui parlavo prima, che la informa eventualmente del raggiungimento della soglia traffico fissata dal contratto. Qualora questo SMS non giunga, eventuali bill shock, quindi queste bollette salate che ripeto stanno prendendo il posto di souvenir, potrà contestarli, farà reclamo al proprio operatore. Occhio naturalmente al traffico dati, tendenzialmente utilizzare le reti wifi che sono soprattutto a New York la trova ovunque perché la città è totalmente coperta. E insomma, abbiamo dato tante raccomandazioni a Maria Grazia, speriamo. Sì, per evitare che finisca come il nostro ascoltatore che ci scrive: estate 2006, vacanza bellissima in Messico, felicissimo del collegamento internet, al ritorno bolletta da 1200 euro. Sentiamo i mercati. Continuate a raccontarci come usate il cellulare, se usandolo all'estero vi ha portato via molto denaro, ma anche vorremmo sapere quali sono le funzioni del vostro cellulare che più vi stanno a cuore, soprattutto il cellulare. Vi state accorgendo che lo utilizzate proprio anche solo per parlare, per fare telefonate, o rispondete sempre meno alle telefonate e scrivete sempre di più? 800 24 00 24, chiamateci. Cuore e denari. Abbiamo il telefonino che fa le foto, ma chiama, sì, chiama, fa le foto, le centrifughe, adesso ce n'è uno che fa il caffè, è uscito un telefonino che fa il caffè, cioè ci sono tutti, come faccio a imparare tutto io, che sono giovane, ma mettiamo mio padre che ha 82 anni, gli hanno regalato uno di quelli a mattonella, grossi così, con scritto HSP, verde e rosso, con solo il numero, gli ho messo col daimo, gli ho scritto telefono, perché sennò la scambia per il telecomando della televisione e ogni 2 minuti il mecciamo, ogni telegiornale, E siamo tornati insieme, è grande Bertolino, mi piace sempre. È il nostro grandissimo amico e grande fan di Cuore e Denari, tra l'altro, quindi salutiamolo. Lo salutiamo e salutiamo anche il nostro amico, certo, che ci chiama dalla Gran Bretagna. Francesco ci scrive dalla Gran Bretagna: ciao carissime ragazze, già solo per questo vale la pena essere ieri letto. Ci hanno detto anche fidanzate d'Italia. Siamo le fidanzate d'Italia, ci hanno detto a Parma. E comunque sono un vostro fedelissimo ascoltatore della Gran Bretagna in streaming, mi fate compagnia ogni giorno lavorando, mi fate un saluto diretta, eccoci qua Francesco, tutte per lei. Un abbraccio, ciao. Per le indicazioni pratiche per questa mattina, io uso il roaming TIM, pur vivendo in Inghilterra da anni, per me è più conveniente. Ognuno naturalmente deve anche un po' informarsi su cosa fare, chiaramente. Allora, noi vogliamo parlare non tanto del numero dei telefonini, ma di come usiamo il nostro cellulare, perché ormai con lo smartphone si possono fare tante cose, si guardano le mail, si tengono sotto controllo i social, si fanno le foto, si può essere davvero multitasking. Il telefonino ci permette di stare in contatto e noi siamo abbastanza in contatto. Io ti scrivo anche quando non siamo qua in redazione. Sì, sì. Devo dire che Deborah risponde subito. Ma questo è un mio difetto, attenzione. Voi rispondete subito anche quando vi chiamano o rispondete solamente agli SMS? Perché, professor Del Corno, ci sono delle persone che ormai usano il cellulare solo scrivendo, non rispondono più alle chiamate. Questo ci racconta qualcosa, è un modo un po' per proteggersi, perché il cellulare suona se no in ogni momento del giorno. Beh, certo, gli SMS fin dall'inizio hanno costituito una sorta di barriera che permetteva di comunicare con dei tempi, con dei modi che non erano così vincolanti come quelli che sono caratteristici della comunicazione parlata. Quindi ai tempi in cui gli SMS avevano molta più fortuna di quanta non ne abbiano oggi, si diceva ad esempio di fidanzati che lasciavano la fidanzata o viceversa via SMS, perché era decisamente molto più facile comunicarlo così piuttosto che parlarci direttamente. Oggi il problema è complicato dal fatto che ci sono una serie di strumenti che consentono di rimanere connessi 24 ore su 24 e anche di essere connessi in tempo reale, insomma. Questo rispetto agli SMS costituisce sicuramente, da un certo punto di vista, un'innovazione e può essere uno strumento di maggiore libertà e di maggiore comunicazione. Da un altro punto di vista, ed è il tema che avete affrontato voi all'inizio della puntata, può diventare una specie di vincolo, di obbligo, che trasforma l'utilità della tecnologia in qualche cosa che ci condiziona e che penalizza la qualità della nostra vita. Qui dico un'altra cosa brevemente, anche rispetto ai costi. Il problema è anche di domandarsi quanta necessità c'è effettivamente di continuare ad essere connessi, di mandare così tanti messaggi, di fare telefonate così lunghe, di navigare in internet così a lungo. C'è la pressione del gruppo, ovviamente, no? Molti amici possono aspettarsi che noi siamo continuamente connessi a Facebook anche se la cosa a noi non interessa. Allora lì c'è forse una domanda da farsi. Esiste ancora la libertà di non avere uno smartphone? Esiste ancora la libertà di non essere su Facebook, di non avere, di non frequentare Twitter? È la domanda che si pone oggi in un bell'articolo proprio su questi argomenti Michele Serra su Repubblica. Vedi che abbiamo avuto la stessa idea del centro del problema. Lui peraltro parte da un ragionamento che gli è stimolato da un signore che si spaccia per lui su Facebook e da anni posta delle comunicazioni assolutamente non c'entra niente. Capita molti personaggi famosi. Serra, vero e reale, scrittore, giornalista. È successo allora, anche, mi scusi solamente un secondo, a Massimo Gramellini, per esempio, che ha dovuto chiudere e riaprire il suo profilo su Facebook, ma chissà quanti altri, appunto. Non solamente le persone famose, però può capitare. Evidentemente non siete ancora il bersaglio di questo tipo di maltrattamento telematico. Però questa domanda credo che ciascuno se la dovrebbe fare, insomma, ma è davvero così necessario che io utilizzi il mio cellulare per tutta questa serie di funzioni che potrebbero essere tranquillamente svolte spendendo meno dal punto di vista economico, ma anche con dei tempi che rispettino un po' di più la necessità di avere momenti per sé, la necessità di una certa privacy e anche la necessità di sfuggire allo stress di una comunicazione così incalzante che io credo che poi diventi... Ecco, direi una comunicazione immediata, ma noi torniamo su questo aspetto sicuramente, stimolando anche i nostri ascoltatori, anche riflettendo sui tempi dell'SMS di WhatsApp, ad esempio, no? Ti pensi alla poesia dell'SMS, ti arrivava, lo aspettavi, l'avrà ricevuto, non l'avrà ricevuto, WhatsApp, sei già tutto subito lì, ma insomma un po' di poesia... Guarda che racconto subito quello che mi hai combinato tu a Pasqua, Dai, racconta. Ah, professor Del Corno, tra l'altro magari facciamo anche un po' un profilino di questa mia socia che ogni tanto mi fa preoccupare. Mi ha mandato un po' di messaggi perché ero a casa in ferie e mi doveva dire alcune cose di lavoro. No, perché tu, dilla bene, perché tu andavi giù in macchina da sola e allora c'era traffico e di solito quando Deborah arriva mi manda un messaggio arrivata. Ecco qua. Non in più c'era anche delle cose c'era di lavoro. No, poi c'è stata un paio di cose, insomma io rispondevo e finiva lì. La sera ad un certo punto. E poi scusa un'altra cosa. Beh, e poi allora doveva nascere tu... e poi doveva nascere anche Miriam di cui io sono un po' una zia adottiva. Esattamente. Ho avuto un po' di giorni complicati per i quali appunto Nicoletta era un po' preoccupata. Detto questo, al quarto messaggio, la sera mi scrive ad un certo punto: ma Deborah, tutto bene? E io le rispondo: sì. Poi mi è venuto il dubbio, ma tu sta a guardare che non ha ricevuto le risposte di oggi, la chiamo e lei, no ma non mi hai mai risposto, morale, doveva chiudere e riaccendere il telefono perché se era bloccato non riceveva le risposte, per cui come vede... Vede, questa ormai uso anch'io... Per dire che non appena si inceppa il telefono andiamo in tilt, no? Come quando ci si esaurisce la batteria e siamo in macchina... Però il professor Del Corno in questo racconto ha letto tra le righe e vuole dire... Professor Del Corno, che cosa stava dicendo? Sono un'amica eccezionale. Stavo dicendo nulla su voi due personalmente, non mi sembra il luogo, anche se mi sembra che la sua preoccupazione per la salute e l'incolumità molto della collega carina, fosse certo. Assolutamente molto carina. Però voglio dire un'altra cosa, dobbiamo veramente essere attenti all'uso che facciamo di questa tecnologia. Perché è una tecnologia che se usata bene ci consente di tranquillizzarci e di rimanere in contatto con le persone alle quali teniamo, se usata male può diventare fonte di ansia. E poi c'è un altro elemento estremamente importante. Uh-huh. Questa tecnologia, proprio perché è così avanzata, è anche, e questo va detto con estrema chiarezza, estremamente imperfetta. Dovremmo anche riflettere, una cosa che non si fa, praticamente quasi mai, su come sono imperfetti tutti questi strumenti di tecnologia così avanzata, cominciando dai computer, la possibilità che si diffondano i virus, la possibilità che un computer vada in tilt, ci sono situazioni in cui un'azienda viene bloccata da per un giorno e mezzo perché il server è andato fuori fase, perché sono necessari interventi che soltanto alcuni tecnici che riescono a fare. Credo che sappiamo tutti che il passaggio da un gestore telefonico a un altro alcune volte si traduce in un collasso del nostro telefonino per due giorni, è successo ad un'amica recentemente. Sì, la connessione ad internet, se cambiamo abbonamento, se cambiamo operatore... Dobbiamo anche, credo, avere un atteggiamento critico nei confronti di questa tecnologia che per certi versi ci affascina e sembra un miracolo, per altri versi risente ancora di una serie di bugs, per usare un termine tecnico che oggi va per la maggiore, sui quali ancora non si è riusciti a porre rimedio. E allora forse qui anche la capacità di prendere un po' le distanze, non sentirsi obbligati a tutti i costi a usare Twitter, a usare Facebook o ad essere sempre connessi, può essere una rivendicazione di uno spazio di libertà e di autonomia del quale io credo continuiamo ad avere bisogno. Anche la tecnologia un pochino si ribella a noi e all'uso ossessionante che ne facciamo qualche volta. Si ribella anche a se stessa, esatto. Perché pretendiamo di racchiudere in un affarino che misura 10x4 e pesa pochissimo una tecnologia che alcune volte si dimostra palesemente non proporzionata a quello che noi gli volemmo richiedere. Insomma. Abbiamo Lorenzo che ci chiama da Trento, una domanda sicuramente per il nostro avvocato Luongo, ma adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme con Lorenzo. Cuore e denari. Amore, sono io, sono Pieve Condotti. Senti, ho appena visto da Valentino un abito da perdere la testa, guarda. Viene solo 8.000 euro. Che dici? La compro? Ok. Grazie, amore. Ci sentiamo più tardi. Scusa, aspetta! E prima, passando davanti a Cartier, così per caso, ho visto una collana in vetrina. Guarda, uno sballo. Con l'abitino di Valentino sarebbe la morte sua. Ok. Sei un tesoro, caro. Ciao, ciao, chiamami più tardi. Ciao. Mi hai chiesto telefonino, eh? Ed eccoci ritrovati in diretta. Allora, abbiamo sentito i rischi di un uso eccessivo della nuova tecnologia. Adesso ritorniamo un po' all'uso eccessivo all'estero del cellulare, soprattutto quando non partiamo consapevoli e quando non partiamo dopo aver fatto una conversazione con il nostro operatore telefonico. Chissà quanti guai al nostro portafoglio. Sentiamo cosa ci chiede Lorenzo da Trento e risponderà l'avvocato Francesco Luongo del Movimento Difesa del Cittadino. Lorenzo, buongiorno, ben ritrovato, ben trovato a Cuore Denari. Buongiorno Lorenzo. Che sospiro di sollievo. Salute. Bravo, a tutti e a tutte. Bravo. Permettetemi di dire viva Radio 24, sì. Che è almeno al pari di professionalmente della Rai. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Va bene. No, non pensavamo di essere le più brave. Ma... vorrei cominciare col dire che avete messo a dura prova la batteria, che secondo me è il guaio più grande di questi dispositivi. E quindi... Lorenzo, no, allora quindi, domanda. Adesso, non volendo uscire dal seminato troppo, io pensavo più che altro al roaming nazionale dati. È possibile sapere che destino potrebbe avere quello? Perché io personalmente mi trovo benissimo, uso dei piani flat che mi permettono di connettermi. Diciamo l'unico... solo che appunto appena l'operatore a cui si è abbonati si collega ad altri operatori per il traffico internet ci sono ancora delle tariffe. Io mi riferivo più a quel roaming di tipo, questo tipo di roaming. Aspetti lì Lorenzo, allora ci facciamo tradurre la sua domanda dall'avvocato Luongo, perché Lorenzo ha messo anche a dura prova le nostre come dire velleità tecnologiche, quella dai, mia che poi e dicono Nicolette. Che siamo antiche un pochino lo siamo, però avvocato Luongo, il roaming nazionale dati, che cosa intende Lorenzo, che prospettive ha questo ambito? Allora, chiaramente il roaming che cos'è? È la fatturazione da parte di un altro operatore di traffico voce o dati. Sì. Ricordiamo la tariffa fissata dall'Unione Europea che è 45 centesimi per megabyte scaricato. Anche in questo caso, al di là del limite tariffario generale che è previsto in ambito europeo, siamo che rifarci alla delibera che ho richiamato, che è la 326 del 2010. In questo caso la delibera è molto dettagliata nel prevedere il diritto dell'utente di conoscere in anticipo, sia in caso di piano tariffario che preveda la ricaricabile oppure un piano da contratto, quali sono le soglie e di preavvisarlo con un SMS oppure nel caso di utilizzo di servizi internet con una finestra pop-up o una email del raggiungimento della soglia di traffico critica che è fissata all'80% del volume scelto. A questo punto voglio sottolineare come, nonostante siano passati ormai 4 anni da questa delibera, le controversie ancora ci sono e chiaramente i consumatori non sono molto informati. Siamo qui per questo. Voglio segnalare una recentissima decisione che si può trovare online del Comitato Regionale per le Comunicazioni, che dipende dall'Autorità per le Comunicazioni i Corecom, che sono questi organismi ai quali peraltro ci si può rivolgere in caso di conflittualità con il proprio operatore o di servizi appunto che si sono manifestati nell'abbonamento eccetera, dove con la deliberazione numero 8 del 22 marzo 2013 prende posizione e ci dà un bel provvedimento in cui riconosce all'utente la restituzione, pensate, di ben 12.638 euro di traffico in roaming internazionale che era stato caricato a questo utente da un operatore. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'utenza quello che è importante è conoscere i propri diritti, possiamo farlo soltanto diffondendo queste norme che in Italia ci sono e che purtroppo non sono molto conosciute, anche perché, diciamocela tutta, gli operatori non hanno interesse a farle conoscere. Certo. Allora, senta, prima di andare alla telefonata di Gianni da Bologna, che tra l'altro introduce anche un termine abbastanza pesante. Riprendo un po' il problema di quanto se usiamo il cellulare per piacere o per dovere, certo, perché ci sentiamo obbligati e non vogliamo uscire in qualche modo dal giro. Esatto. Prima di sentire Gianni, volevo far fare all'avvocato Luongo solo l'ultima raccomandazione. Il tema è molto ampio, molti ascoltatori ci stanno raccontando tutta una serie appunto di bill shock ricevuti per essere andati all'estero senza essersi adeguatamente informati. Allora, siccome molte famiglie in questo momento staranno organizzando i propri viaggi all'estero per la prossima estate o magari staranno cercando di organizzare il viaggio del proprio figlio che va all'estero per studiare o per tante altre cose, naturalmente naturalmente si preoccupano anche di attivare un abbonamento telefonico conveniente per conversare, appunto comunicare oppure con i figli lontani da casa. SIM, no? Quando paese, si è sul posto. Sul posto ecco, questo è il suggerimento più di buon senso, avvocato Luongo, o si può e deve fare anche qualcos'altro? Guardi, no, la cosa principale è chiamare il proprio operatore, aderire a un piano tariffario conveniente. Se si tratta di vacanze che durano molti giorni, è conveniente acquistare una SIM del luogo lì nel paese, certo, dove si andrà. Lo suggeriva anche Matteo da Milano, che non facciamo in tempo a sentire. E anche e poi, molti messaggi. È vero, e poi? O anche il lavoro, e nel caso in cui arrivino bill shock, quindi sia in bolletta sia semplicemente si verifichi un addebito senza gli adeguati preavvisi, non resta che fare un bel reclamo. Ottimo. All'operatore, sospendere il pagamento della bolletta, attendere la risposta al reclamo e far leggere poi la risposta a un'associazione di Benissimo. Consumatori o a un legale per attivarsi nei modi che abbiamo Grazie. Spiegato. Cuore e denari. Eccoci, ma non eravamo al telefono. Non eravamo al telefono, ma abbiamo amabilmente. Abbiamo tenuto al telefono con noi il professor Franco Del Corno perché volevamo ancora, come almeno si dice, salutarlo, fare due parole. Professore. Buongiorno. Buongiorno. Almeno l'ABC della buona educazione a salutare l'ospite. Ci sono. E poi anche perché non volevamo perderci l'intervento di Gianni, che è un intervento perfetto un po' per chiudere questa prima parte della trasmissione. Gianni, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti voi. Carissimo, a voi due in modo particolare, a cui rivolgo il mio amore mediatico. Bravo Gianni, questo ci piace. Okay. Grazie. Allora andiamo al dunque, io ho parlato di bulimia della comunicazione, il professore magari su questo si sarà già speso magari in altre circostanze, sembra quasi che tutti siano presi dalla frenesia di comunicare qualche cosa in qualsiasi momento. Questo credo che sia terribilmente pericoloso perché viene a mancare la capacità di pensare prima a quello di scrivere. Scrivono come se parlassero quotidianamente le persone fra di loro, senza tanto dedicare attenzione a ciò che stanno scrivendo. E quindi sono delle pietre che vengono lanciate, questi messaggini io li immagino come delle pietre da una parte all'altra, e a volte fanno anche male, oltre ad essere pericolosi, perché se non si interrompe la comunicazione, no? Sulla strada succedono incidenti, sul lavoro ci sono distrazioni. Chissà mai che qualcuno, qualche medico non lasci proprio la pinzetta nello stomaco mentre sta rispondendo al telefono, no? Adesso sto pensando, adesso sto vagando troppo. Quindi Gianni, parlare, quando... Però, proprio questo che volevo dire. Gianni, quando si diceva pensa prima di parlare, adesso si dovrebbe dire pensa prima di scrivere, se perché no, ormai si parla scrivendo. Se no gli equivoci poi non finiscono più, come è capitato all'ascoltatore che ci ha scritto nel corso della mattinata dicendoci che sua moglie, leggendo un messaggio su Facebook, ha equivocato. E lui ha faticato non poco per chiarire la reale natura della relazione della persona alla quale aveva scritto, per cui a maggior ragione è valido il suggerimento dell'ascoltatore che dice pensiamo prima di scrivere. Professor Del Corno, tra l'altro lei ha proprio scritto anche un libro quando iniziavano a circolare gli SMS, straordinaria fortuna di un uso improprio del telefono. Sì, esatto, e stiamo parlando un po' della preistoria. Ormai questo libro è datato, vero? È datato, anche se sono passati pochi anni, è questo così. Libro è assolutamente datato. E allora fu criticato il titolo perché si parlava di un uso improprio del telefono. In realtà telefono vuol proprio dire mandare la voce lontano, insomma, no? Comunicare vocalmente lontano. Certo. Stiamo vedendo che questo uso, tra virgolette, improprio si è ampliato a dismisura e oggi veramente col telefono si fanno milioni di cose che non erano nemmeno prevedibili quando abbiamo scritto insieme al collega Gianluigi Mansi quel libro. Perché una delle caratteristiche della tecnologia, io credo che sia proprio la sua estrema velocità, oggi, cioè moltissime applicazioni tecnologiche diventano rapidamente obsolete e altre nuove ne arrivano, e un'altra caratteristica credo che sia anche una certa relativa imprevedibilità. Allora, proprio per questo, io credo che questa vicenda dei telefonini, degli smartphone, di tutti questi strumenti sia in forte ebollizione, e dobbiamo avere un po' anche la pazienza di stare a vedere come andranno avanti le cose. Sono molto d'accordo con l'ascoltatore che ha parlato di bulimia della comunicazione, perché credo che sia veramente così oggi. Credo però che non si tratti di un trend destinato a consolidarsi senz'altro. Dobbiamo stare a vedere che cosa succederà nei prossimi anni, perché ci sono per certi versi all'interno di questa bulimia della comunicazione anche alcuni elementi che possono servire da antidoto. Ormai la gente che se ne va da Facebook e da Twitter perché è stufa di sentirsi insultare diventa tanta, la gente che dopo aver acquistato cellulari estremamente tecnologici si stanca anche della complicazione del loro uso e torna a cellulari più semplici, è un'altra modalità che di comportamento che a me sembra ogni tanto comincia ad affacciarsi. Quindi credo che abbiamo iniziato la trasmissione dicendo parliamo senza giudicare, certo. E noi adesso aspettiamo, quindi professor Del Corno, sospendiamo il giudizio e ci sentiamo, speriamo, il presto. Grazie professor tempo. Del Corno, grazie molte. Grazie a voi. Concludiamo questa parte ritornando brevemente sul fatto che l'uso del telefono può portare all'eccesso alcune relazioni fino a sconfinare nello stalking. È un altro libro che vogliamo segnalare. Ne parla, si intitola Come ti permetti di dire che non mi ami quando l'SMS diventa stalking. Gli autori sono Tino Vermeer e Nico Aglia, Morellini editore. È una raccolta proprio di SMS, un esempio concreto di come una relazione tramite il cellulare può degenerare, purtroppo in questo caso troppi SMS che una donna inviava ad un uomo e appunto questo poi si è stancato fino ad arrivare naturalmente alla denuncia. Io lo dico anche alle ragazze, se tanto non ci vuole un uomo è inutile che lo stiamo a tempestare di SMS. Perché non vi capisce. Per carità del cielo. E a proposito, abbiamo scritto SMS, abbiamo parlato di telefonini e abbiamo citato due libri che parlano appunto di questo. Alcuni ascoltatori l'hanno definito oggetto infernale, invece può essere molto utile. E apriamo questa ultima parte della trasmissione parlando di libri. Abbiamo il piacere di avere con noi qui Salvatore Carruba, conduttore di un libro tira l'altro. Buongiorno. Ciao Salvatore, buongiorno, tu col cellulare? Come sembri? Io sono un po' obsoleto, lo uso per telefonare e non mi sono mai iscritto ai social network e devo dire che le mie figlie mi hanno detto hai fatto bene. Ah, hai visto? No, mi hanno solo consigliato forse staresti bene su Twitter, ma ci sto riflettendo. Perché tu comunque prima di scrivere rifletti, certo, quindi questo è assolutamente, se vai su Twitter saranno dei tweet intelligenti. Tu invece come dico io. Sotto le grinfie di Twitter sei caduta, io ancora no, abbiamo il profilo del nostro programma, sì. Ma io non ho quello individuale, quello personale, e vabbè, vediamo un po'. Vedremo. Sì. Allora, perché questa ultima parte della trasmissione noi vogliamo chiudere insieme a voi l'iniziativa Cuore Denari e Vitali che ci ha dato grandi soddisfazioni. Moltissime soddisfazioni, devo dire, e ci avete letteralmente sommersi di racconti e quindi le vostre risposte agli incipit che ha elaborato per noi il nostro grande Andrea Vitali appunto sono stati davvero tanti. E noi continuiamo allora il nostro programma parlando di letture e di scritture in questa ultima parte. La domanda è? La domanda è se leggete, cioè il Salone del Libro di Torino, se leggete, quanto leggete, se riuscite a leggere anche la sera prima di addormentarvi, perché con Salvatore Carruba dicevamo, io ad esempio tutte le sere quando vado a letto mi porto, apro il mio libro e leggo. L'obiettivo però è grande. E dico perché sono... Allora, il primo problema è che devo comunque tornare indietro di 2 o 3 pagine perché non mi ricordo anche quello io, che ho letto la sera prima. E poi dopo 3 o 4 pagine mi prende il sonno. Ma Salvatore Carruba ha una ricetta per noi, perché è una questione, dico, anche di postura. Io sono abituato a leggere, un po' lo devo fare per lavoro, ma l'ho sempre fatto, e devo dire che il sonno non mi si concilia se non leggo qualche pagina di libro, per cui anche quando arrivo tardi la sera perché c'è stato uno spettacolo o qualcosa e si fa tardi, però 2 o 3 pagine non me le lascio scappare. Beh, 2 o 3 pagine ce l'arrivo anch'io. No, Ma tu vai normalmente avanti. Normalmente vado un po' avanti. E ho notato che quanto più si sta dritti e quanto più si sta seduti anche nel letto, tanto meglio si reagisce. Una posizione che favorisca l'abbiocco ha una conseguenza fatale. Il libro scivola via. Vedi, per questo ho capito che invece sabato e la domenica, quando sono seduta sul divano, devo dire un po' allungata, allora lì mi divoro i libri che non sono riuscita a leggermi in settimana. Questo per dire quando e come leggete. 800240024 e soprattutto avete letto i racconti di Cuore Denari Vitali? Allora, andiamo allora a sentire un po' il nostro protagonista di questo cammino, di questo percorso. Non lo abbiamo ancora, allora possiamo però sentire invece la nostra inviata al Salone del Libro di Torino, che salutiamo, Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Buongiorno a tutti qui dal Salone del Libro di Torino. Allora, vedi, lei veramente come Salvatore, Torino, una divoratrice di libri. Altro, vedi, senti che brio nella sua voce. Infatti, lì sarà nel suo centro. Lì è nel suo mondo, naturalmente. No, tra l'altro, a parte il fatto di essere inviata in questi giorni per il Salone del Libro di Torino, è anche una delle componenti della nostra giuria, della nostra iniziativa Cuore Denari Vitali, insieme a Salvatore. Anche noi naturalmente un po' abbiamo giudicato i racconti che ci sono arrivati, perché certo, abbiamo voluto sbirciare, e ad Andrea Vitali. Certo, allora vorrei anche chiedere se il Salone del Libro è un mondo parallelo, visto che l'iniziativa con Andrea Vitali l'abbiamo denominata proprio così. Visti i dati su quanti italiani hanno l'abitudine di leggere, Alessandra, che cosa emerge da questa edizione del Salone del Libro? No, se guardiamo i dati viene una tristezza infinita, perché ormai lo sappiamo, gli ultimi dati sono di ieri, di due giorni fa, solo 43 italiani su 100 leggono almeno un libro all'anno, la metà ne legge solo uno, sono solo il 6-7% i cosiddetti lettori forti, cioè quelli che leggono almeno una decina di libri all'anno, quindi insomma tristezza infinita da questo punto di vista. Certo. Però al Salone del Libro di Torino, per fortuna, c'è un grandissimo entusiasmo, perché è frequentato da lettori forti ma anche non forti, quindi tante persone che si mettono in coda per poter assistere a un incontro con uno scrittore, non so, ieri c'è stato Stefano Benni, grande calore insomma nei suoi confronti, ce n'è veramente per tutti i tipi, quindi qui è esattamente il mondo parallelo rispetto, certo, a quello che è l'Italia della lettura, anzi della non lettura. A proposito di mondi paralleli, ma in linea con noi abbiamo anche un amico. Sì. Abbiamo Giuseppe Culicchia. Sì. Che è scrittore e traduttore. Ciao Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua, perché con lui volevamo un po' affrontare l'universo mondo della scrittura e della lettura. A volte abbiamo l'impressione che in Italia ci siano più scrittori che lettori, ma quali sono tutte le professioni? Perché so che lì avete un'iniziativa specifica legata in qualche maniera alla scrittura, Giuseppe. Voi avete questa iniziativa che si chiama Officina? Officina. Sì, Officina è il programma dedicato agli editori indipendenti, che occupa il primo padiglione del Lingotto e parte del secondo, la parte confinante col primo. È la prima volta che il Salone del Libro dedica un programma apposito agli editori indipendenti, che sono come i panda, bisogna fare qualche cosa per salvaguardarne l'esistenza, per preservare la biodiversità, perché altrimenti qui finiremo tutti quanti a leggere soltanto i 10 bestseller che sono nelle classifiche dei libri più venduti e amen. Questi editori fanno invece un lavoro di ricerca, fanno un lavoro anche da un certo punto di vista ancora artigianale, con grande passione, con grande cura. Sono editori che molte volte curano maniacalmente ogni aspetto, ogni componente del libro, quindi dalla copertina alla revisione del testo, l'editing, eccetera, eccetera. E all'interno di questo programma abbiamo pensato di inserire degli appuntamenti sui mestieri del libro, ovviamente non esauriscono tutti i mestieri del libro, perché l'idea poi è di continuare anche nelle prossime edizioni. E per esempio ieri c'è stato un incontro molto interessante sul marketing applicato alla letteratura. Oggi ci sarà un altro incontro che riguarda l'ufficio stampa, poi avremo il lavoro del direttore editoriale, insomma, certo, vari mestieri che tutti quanti concorrono a far sì che dal file dell'autore il testo arrivi nelle mani del lettore. Esattamente, quindi tutto un percorso molto, molto, molto articolato, ma molto interessante naturalmente. Mi piace questo editori indipendenti, Salvatore. Quando Giuseppe parlava mi immaginavo un po' i prodotti di nicchia, no? Nell'alimentazione, le piccole robioline, i prodotti che la Slow Food è andata a scovare. Il parallelo forse tiene. Sì, tiene l'esigenza di cui parlava Giuseppe Culicchia di salvaguardare questi editori, nel senso che i dati ci ricordano che i primi tre o quattro editori rappresentano un 70-75% della produzione e dei lettori e dei prodotti che vengono letti in Italia. Quindi la produzione indipendente di questi piccoli editori garantisce degli spazi anche a tanti autori, ma garantisce anche delle scoperte, garantisce delle possibilità di pubblicare delle cose insolite che i grandi editori ormai si rifiutano anche di considerare. Quindi questo mondo è sicuramente un mondo da salvaguardare. Lo dobbiamo salvaguardare come le robiole, nel senso che dobbiamo essere noi ad andare a scoprire questi editori, questi libri, questi autori, e far diventare la lettura, anche la lettura, un fenomeno pop, come è diventato pop il vino, il cibo, i ristoranti. Vedi, ecco. Un librino, una robiolina, certo. Una robiolina e un librino. Però bisogna scrivere bene. Sì, Ale, dimmi. Ecco, mi sentite? Ecco, certo. Volevo spendere una parola sulla traduzione, perché Giuseppe Culicchia è anche un traduttore, sì. E qui a Officina si parla molto di traduzione. Visto che lui deve scappare, gli faccio una domanda al volo. Quando leggiamo un libro, no, leggo un Philip Roth, quanto c'è in italiano naturalmente di Philip Roth e quanto c'è del traduttore? Non so, un 80-20, un 90-10, perché il lavoro del traduttore è fondamentale, Giuseppe. Ah, questo purtroppo non è una cosa che si possa quantificare così, dipende da caso a caso, da traduzione a traduzione. Di sicuro in Italia il lavoro del traduttore è un lavoro pochissimo considerato, a cominciare intanto dai compensi, perché in Germania un traduttore percepisce 40 euro a cartella, in Italia siamo sui 12 euro. E poi per il fatto che quando un libro viene recensito rarissimamente si accenna al lavoro del traduttore. Io lo faccio. Sì, Salvatore lo fa, è vero. E noi lo abbiamo fatto per quello che ci era consentito col tempo che abbiamo a disposizione. Dobbiamo proclamare i vincitori dell'iniziativa Cuore, Denari e Vitali, per cui noi affettuosamente ce ne scusiamo, ringraziamo Giuseppe Culicchia e Alessandra per essere stati con noi. Alessandra, però il tempo ci sta scappando di mano, vi rideremo altro spazio, ci hanno già salutato, abbiamo sentito. Andiamo alla proclamazione di chi si è aggiudicata questa iniziativa. Allora, per Cuore, il racconto scelto è quello di Eleonora. La settimana era quella del 13 febbraio. Bene. L'incipit di questo racconto ci portava nel mondo parallelo dell'odontoiatria. Ti ricordi, Salvatore? Perché Eleonora è stata scelta tra i racconti di Cuore? Ma credo per l'accenno finale al dizionario, un oggetto ormai anacronistico apparentemente, che invece dovremmo riscoprire, perché ci fa scoprire il gusto della parola precisa, e quindi anche il gusto della scrittura. Il racconto vincitore di Denari invece è quello di Adriano, la settimana era quella del 6 marzo e Andrea Vitali ci aveva portato nel mondo parallelo delle crisi economiche. Perché abbiamo scelto Adriano, Giuseppe, Salvatore? Sì. Beh, perché in questo racconto di Adriano immagino sia stato scelto da tutti noi, perché c'è questa satira molto corrosiva ai luoghi comuni, si parla infatti delle mezze stagioni, un consiglio dei ministri che si fa intorno a questi luoghi comuni, e questo secondo me è una irrisione efficace. Benissimo. Non soltanto ai consigli dei ministri, ma a tutte le occasioni inutili in cui parliamo tutti inutilmente. Ad Adriano ed Eleonora sono assegnate due smart box incantevoli. Evasione. E l'applauso e l'affetto di Cuore Denari, e grazie per aver partecipato alla nostra iniziativa. Grazie a Salvatore, ad Alessandra, ad Andrea Vitali, certo, che ci ha scritto gli incipit. Bene. E forse riesce anche a dirci ciao. Andrea, eccomi, ti abbiamo beccato ciao. Anche proprio dal Salone del Libro. In corner proprio. Grazie. Tutto bene? Grazie, allora. Complimenti, vincitori. Complimenti, grazie ad Andrea Vitali. Bene. Noi ci vediamo lunedì, direi, a questo punto. Ah già, punto. Che oggi è venerdì, anche va bene. Un'oretta. Ciao, buona giornata a tutti. Cuore e Denari.